in primo piano. Buongiorno e benvenuti, buona domenica a tutti. Benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che a differenza di tutti gli altri, come vedremo, punta su quella che potrebbe essere una novità nelle relazioni tra le parti sociali, come si dice, perché ieri al meeting di Confindustria dei giovani industriali di Capri è intervenuto il presidente di Confindustria dicendosi pronti a un patto fra gli attori della fabbrica, e c'era anche il ministro dell'economia e dello sviluppo economico Carlo Calenda, e il suo intervento viene sintetizzato con spinta agli investimenti mai vista prima. Ma a partire subito, perché mi concentro già prevenendo magari qualcuno che magari manderà qualche sms dicendo che siamo un po' troppo confindustriali, perché mi concentro su questa proposta, perché sappiamo che il problema in Italia in questo momento è la bassa crescita, che condiziona naturalmente anche il famoso rapporto tra deficit e PIL, perché il PIL non cresce, e quindi mi sembra veramente importante qualsiasi segnale perché si dia una spinta all'economia italiana. Mi sembra particolarmente importante. Comunque trovate poi tutti gli approfondimenti alle pagine 2 e 3 del Sole 24 Ore. In prima pagina anche, come avete sentito anche nel GR, le novità sulla manovra finanziaria, che partono dal sì del Quirinale al decreto fiscale, con questa grande novità che sulle multe, in realtà tutte le multe non verranno rottamate come inizialmente si pensava, verranno rottamati solo gli interessi. Vi segnalo dalla prima pagina del Sole 24 Ore anche un aggiornamento sulla vicenda del Monte Paschi di Siena, la più antica banca italiana, ma anche quella più malata in Italia e in Europa, potremmo dire. Perché ci racconta Alessandro Graziani, poi trovate l'intero articolo a pagina 15. Ora si amplia il ventaglio di piani di salvataggio, ci sarebbero in campo anche Soros, il finanziere Soros, con un nuovo piano. Quello che serve al Monte dei Paschi di Siena è una cifra enorme, preparatevi, è una ricapitalizzazione da 5 miliardi. Il Corriere della Sera, come vedremo tutti gli altri giornali, praticamente apre sulla questione del decreto fiscale e in particolare sulla sanatoria degli interessi, e poi ribadisce, perché questo è stato ribadito, che non ci sarà più Equitalia, anche se naturalmente, siccome Equitalia è la società che deve riscuotere le tasse non pagate, verrà sostituita da un'altra società. La fotonotizia è dedicata alla strage di Mosul di ieri, perché si parla di più di 200 morti, tutti civili, e il Corriere addirittura parla di 300 civili uccisi, tra questi molti bambini. La Repubblica apre in realtà su un'intervista che ha a Padoan, avete sentito anche nel GR, il titolo scelto per richiamare l'intervista in prima pagina: se boccia la manovra l'Europa rischia la fine. Il riferimento naturalmente è al fatto che, come sapete, la manovra finanziaria, il decreto fiscale ad essa collegata, devono essere approvati dall'Unione Europea, e questo lo vedremo se succederà nei prossimi giorni. Anche in questo caso la fotonotizia è stata scattata a Mosul. Il titolo del reportage, Giampaolo Cadalanu, inviato di Repubblica, è: in fuga da Mosul non c'è posto nei campi, 300 uomini e bimbi trovati appunto in una fossa comune. La Stampa titola sul fatto che Equitalia verrà sostituita da una società che entrerà che sarà controllata dall'Agenzia delle Entrate, e quindi il titolo: la nuova Agenzia delle Entrate, sconto su cartelle, tasse e multe. In questo caso la fotonotizia è dedicata a un'inchiesta che ha fatto la Stampa, e che poi trovate le pagine 12 e 13, sui bus low cost. È quella che viene definita la carica dei bus a un euro, così viaggiano i ragazzi, e già hanno questo mezzo di trasporto, specie per i più giovani, ha sostituito le rotaie, come si legge poi nelle pagine interne, quindi il mitico Interrail per quelli della mia generazione, e sta facendo concorrenza anche all'aereo, anche se naturalmente appunto è più facile la concorrenza per la lunghezza delle tratte con le ferrovie che non con le compagnie aeree low cost. Il Messaggero, anche in questo caso focus sulle multe, rottamati gli interessi, l'accenno al fatto che Mattarella ha firmato questo decreto fiscale, si dice appunto che sia stata proprio l'influenza del presidente Mattarella a passare da una rottamazione complessiva delle multe a una rottamazione parziale, cioè solo degli interessi. Anche in questo caso la fotonotizia dedicata a Mosul, il titolo "Orrore Mosul, bambini giustiziati dall'ISIS, civili usati come scudi umani dai jihadisti". In questo caso il reportage poi lo trovate a pagina 12. Vi segnalo la prima pagina della Gazzetta dello Sport perché, come sapete, ha vinto ieri il Milan, ha sconfitto la Juventus con un gol di questo giovanissimo giocatore Locatelli, e da qui il titolo "Milan Baby Boom", ma tra parentesi arrabbia Juve per il gol contestato, scusatemi. Passiamo alla Verità, perché visto che abbiamo citato il calcio, la Verità è il quotidiano fondato da Maurizio Belpietro da circa 3 settimane fa, perché si parla di calcio, ma sull'inchiesta che coinvolge Tavecchio, il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, la FIGC. Il consulente del capo della FIGC dice: "È vero, avevo conti e società offshore, non so che cosa ha firmato Tavecchio". L'ex arbitro Di Cola, che è appunto un consulente di Tavecchio, ammette di aver fatto operazioni in Svizzera, alle Cayman, in Belize. La Svizzera ora un po' meno, ma Cayman e Belize sono sicuramente paradisi fiscali, e gli incontri tra il presidente della Federcalcio e il fiduciario che adesso lo accusa di aver intascato tangenti. "È vero, sono stato io a presentarli", poi quello che è successo dopo, dice Di Cola, "non lo so". La fotonotizia in questo caso è dedicata poi a un lungo pezzo che trovate a pagina 9 di Giancarlo Perna, che è uno dei giornalisti che da Libero ha seguito Maurizio Belpietro alla Verità, e il titolo è "Pierlu Bersani, il principe degli incoerenti", e in questo ritratto appunto che poi trovate a pagina 9 Giancarlo Perna ripercorre la carriera politica e le prese di posizione nei vari anni di Pierluigi Bersani, che ieri ha fatto notizia di nuovo per aver di nuovo contestato Matteo Renzi, segretario del PD, e la riforma costituzionale, perché ormai sappiamo che Bersani è uno dei più agguerriti esponenti del no del votare no al referendum, che quindi boccerebbe la riforma costituzionale. A proposito di referendum, vi segnalo il bestiario di Giampaolo Panza, un'altra firma di Libero che ha seguito Maurizio Belpietro in questa avventura della Verità, e il titolo della sua analisi è "Il sì rischia di vincere perché la destra è allo sbando". Il Giornale: "Renzi si rimangia il condono delle multe", appunto riferimento sempre alla stessa vicenda. E pensate che ieri sera, mentre guardavo il telegiornale, dicevo: scommetto che domani ci sarà qualche titolo su questa notizia, perché in questo decreto fiscale sono previsti anche 600 milioni per gli immigrati, che sintetizzato così non si capisce, però in realtà è per aiutare soprattutto i comuni che ne accolgono di più. Il Giornale appunto sottolinea questa parte del decreto fiscale. Poi io credo che sarebbe giusto, visto che sappiamo che l'immigrazione è un'emergenza, vedere veramente che cosa servono questi 600 milioni. Potrebbero essere utili, potrebbero essere forse c'è un modo appunto per non semplicemente darli a pioggia, ma cercare davvero di migliorare le procedure, o comunque i modi in cui cerchiamo di fronteggiare l'immigrazione, anche quella clandestina. Libero titola su Renzi, ma in questo caso prendendo spunto dalle critiche che Renzi sta facendo ogni giorno all'Europa, e sappiamo che appunto dobbiamo aspettare poi nei prossimi giorni la sentenza dell'Europa sul decreto legge sulla manovra finanziaria. E quindi il titolo: "Esagerato, Renzi, voglio cambiare l'Europa. Il premier vede il sondaggio secondo cui i più incerti sono gli anti Unione Europea e lancia un super spot: fatemi vincere e metterò in riga pure l'Unione Europea". Quindi la tesi di Libero è che queste prese di posizioni sempre più forti, sempre più frequenti di Matteo Renzi contro l'Europa siano legate a questo sondaggio, che dice che gli incerti, che sappiamo sono ancora molti tra gli elettori che il 4 dicembre andranno a votare per il referendum sulla riforma costituzionale, sarebbero anti Unione Europea, e da qui la decisione di cavalcare questa ondata anti-europeista e scagliarsi contro l'Europa a più riprese. Molto interessante, poi lo vedremo dopo all'interno, l'articolo di Francesco Specchia intitolato «È reato abbandonare i genitori anziani». Viene infatti, con una legge, viene garantita agli anziani la stessa tutela che viene garantita ai bambini. Ci fermiamo però un attimo per qualche aggiornamento e per il meteo e ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buona domenica. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, sono già arrivati anche alcuni messaggi. C'è un ascoltatore che propone di dare l'Oscar a Alessandro Milan per l'invenzione del premio giornaliero la carta costa, e sono abbastanza d'accordo. E comunque appunto 349-238-6666 per i vostri messaggi, o se volete anche mandare messaggi a me, sono su Twitter e su Facebook, due social network forse anche troppo. Ma torniamo sulle prime pagine dei giornali. Quella che ancora vi voglio segnalare prima di passare alle pagine interne è quella dell'Avvenire, l'unico giornale a titolare su quello che sta succedendo a Mosul. Gli orrori di Mosul, centinaia di civili sequestrati e uccisi dall'ISIS, minato un impianto chimico e ci sarebbero quindi anche 1000 intossicati. I reportage poi li trovate a pagina 5. La fotonotizia invece è dedicata all'altro dato che abbiamo sentito molto analizzato, e ci sono anche altri articoli che potrei segnalarvi su questo risultato un po' sconcertante, che siamo noi italiani quelli con più giovani adulti che restano a casa. E qui il commento è di Massimo Calvi: non è la cicogna a portare i mammoni. Vi segnalo per completezza anche la prima pagina del Fatto Quotidiano. Anche in questo caso il tema principale è quello del decreto fiscale. La rivoluzione di Equitalia farà le stesse cose con un altro nome, quindi anche in questo caso, e come sempre del resto, il Fatto Quotidiano molto polemico con le misure del governo Renzi. Segnalo all'ascoltatrice che dice che gli interessi erano sempre stati rottamati. No, non è così. Nella prima versione appunto anche gli interessi venivano rottamati, quelli per le multe stradali, mentre appunto nella correzione gli interessi non saranno rottamati. Io lo confermo, questo era la situazione prima e la situazione ora. Dalle pagine interne del Sole 24 Ore un interessantissimo articolo di Jacopo Giliberto, che è il nostro esperto di questioni ambientali ed è anche una bellissima penna, se posso aggiungere. Sulla copertina appunto ci spiega come sia stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che individua gli impianti, gli inceneritori per risolvere l'emergenza nelle regioni del centro-sud, perché sicuramente quello dell'immondizia lo sappiamo, poi quando ci sono le emergenze vere come quella di Napoli negli anni scorsi o di Roma, ma può capitare ovunque, gli inceneritori sono un tema molto discusso, nessuno li vuole in teoria, non vicino, not in my backyard come dicono gli americani, ma però sono necessari. Un dato: gli italiani hanno prodotto 32,1 milioni di tonnellate di spazzatura nel 2009, poi 31,3 nel 2011, 29,5 nel 2013, 29,6 milioni di spazzatura nel 2014. Spazzatura che appunto va smaltita, e pensate, in Italia, ci racconta Jacopo, sono da collocare 1,8 milioni di tonnellate di spazzatura che non trovano destinazione. E poi dal Sole 24 Ore la nuova iniziativa partita proprio in questi giorni, le pagine dedicate a sport e business. Tutti i numeri dello sport, sarà appunto un appuntamento settimanale, e l'articolo principale della pagina di oggi, che è la 17, sponsor e diritti TV. La spesa globale nel 2017 supererà i 100 miliardi di dollari. Investitori asiatici, new e digital media spingono i ricavi dell'industria sportiva. Passiamo invece alle pagine interne del Corriere, e qui un approfondimento su una questione di cui sicuramente ci si occuperà nei prossimi giorni, e cioè lo sgombero del campo profughi di Calais in Francia. Parte domani, infatti, domani mattina alle 8, racconta Stefano Montefiore a pagina 17 del Corriere della Sera, via lo sgombero dei profughi da Calais. 7.000 persone dovranno essere distribuite in tutta la Francia, e come abbiamo anche visto sui giornali francesi, ne abbiamo citato citati alcuni nella rassegna stampa europea di ieri, addirittura l'obiettivo è ambiziosissimo, riuscire a sgombrare 4.000 di queste 7.000 persone già nel primo giorno. Vedremo come andrà, si annunciano proteste dei movimenti no border e c'è uno schieramento di polizia incredibile. Sempre dal Corriere della Sera, la domenica sapete che ha una sezione dedicata alla salute, che si chiama appunto Corriere Salute. Il focus di oggi è su come dare i farmaci ai bambini, in particolare quando si tratta di antibiotici, il rebus delle dosi per i bambini, alcuni suggerimenti pratici e anche quello che bisogna evitare. Passiamo invece alla Repubblica e qui all'interno c'è un articolo di Andrea Bonanni, che è l'esperto di questioni europee della Repubblica, con un reportage da Namur in Vallonia, perché sapete che questa piccola regione del Belgio ha bloccato il trattato di libero scambio tra l'Europa e il Canada. Il titolo del reportage di Andrea Bonanni: nella piccola orfana del carbone che blocca Europa e Canada. Dalla pagina di Repubblica anche un estratto dal libro, dalla prefazione che Papa Francesco ha fatto al libro Non aver paura di perdonare di Louis Dri, che è uno dei suoi confessori. Il libro è appena uscito ed è edito da Rai ieri. Il Papa Francesco appunto ha fatto la prefazione di questo libro e il titolo scelto da questo da Repubblica per l'estratto che ha in anteprima è Viviamo in tempi di guerra mondiale, possiamo vincere solo con il perdono. È il titolo appunto del libro, anche Non aver paura di perdonare. Qui un'altra vicenda invece, non so se tipicamente italiana o no, però sicuramente che dovrebbe far riflettere, la trovate a pagina 21, c'è la cronaca e poi il commento di Michela Marzano. Il fatto di cronaca è che nell'ospedale di Bari è stato preparato un modulo prestampato che verrà distribuito a tutte le donne che si sono sottoposte all'aborto. E in questo testo si legge: gentile signora, su sua richiesta è stata sottoposta a IGV, interruzione di gravidanza volontaria. Le auguriamo che l'intervento cui è stata sottoposta in data odierna rimanga unico. E prosegue questo volantino. L'IVG ha delle implicazioni di ordine morale, sociale e psicologico. Non è solo una mera procedura chirurgica o farmacologica, ma un rischio per la stabilità emotiva con possibili ripercussioni sul piano relazionale. Perciò si dovrà adottare un valido metodo contraccettivo affinché la vita affettiva e sessuale possa svolgersi serenamente. Come per dire che l'aborto è un metodo contraccettivo, cosa che naturalmente non dovrebbe essere. E quindi il commento di Michela Marzano: è giusto discutere con una donna che si appresta a praticare un IVG per capire con lei se sia o meno possibile percorrere un'altra strada. È doveroso informare ogni donna dell'esistenza di validi metodi contraccettivi. È anche comprensibile che dopo un aborto il personale medico si mostri disponibile e pronto ad ascoltare una donna e ad accoglierla successivamente se lei lo desidera. Ma consegnarle una pagina dattiloscritta in cui ci si augura che l'intervento cui è stato sottoposta la donna rimanga unico significa veramente tornare indietro di quasi un secolo e umiliare la donna, per usare le parole di Simone de Beauvoir, ricordandole che, nonostante tutto, è lei che incarna sotto forma concreta e immediata la colpa dell'uomo. Passiamo alle pagine interne del Messaggero, che invece si occupa del Movimento 5 Stelle, ma non per quello che sta succedendo a Roma, ma per quello che succede a Genova. Movimento 5 Stelle, la faida di Genova. Grillo perde pezzi in casa. Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle insieme a Casaleggio, sapete, è originario di Genova. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle a Genova, Putti, rompe liti e insulti con i fedelissimi di Beppe. Basta politica dei selfie. Ora la scelta del prossimo candidato sindaco è un rebus. E anche a Genova viene dato un nuovo giro di vite sulle regole per le comunarie, cioè le primarie per stabilire chi si può candidare a sindaco di una città. Vi segnalo anche dalle pagine interne del Messaggero che è molto interessante, soprattutto nella parte della cronaca di Roma, perché abbiamo parlato del Movimento 5 Stelle a Roma per settimane, dello stallo della Giunta, adesso non se ne parla quasi più, sì, penso che sia perché la Giunta ha meno problemi e stia lavorando, ma leggendo le cronaca, pagina appunto la parte di cronaca del Messaggero, scopriamo che in realtà i problemi ci sono e sono gravi e si spera vengano risolti presto. Per esempio, a pagina 44, lavori stradali e buche, appalti senza controlli. L'ANAC, l'ente che deve controllare anticorruzione guidato da Raffaele Cantone, ha aperto un'inchiesta sulle gare perché ci sono delle anomalie sugli affidamenti alle ditte e il bando riguarda la manutenzione della viabilità principale della capitale. La Stampa è l'unica titolare su queste dichiarazioni di D'Alema, che però vengono riportate anche da tanti altri giornali. L'ultima di D'Alema, infatti, che sapete è quasi direi il leader all'interno del Partito Democratico del fronte del no alla riforma, al referendum sulla riforma costituzionale, ieri ha detto esattamente questo, che i giovani sono per il no perché non vogliono Verdini al governo. Al potere, naturalmente gli ha subito replicato il presidente del PD Orfini dicendo che gli anziani non capiscono è offensivo, e poi che con Berlusconi avrebbe potuto cambiare le cose, da D'Alema, protagonista della famosa bicamerale, e poi la Boschi invece gli ha detto sei un arrogante. È una frase di D'Alema che sicuramente ha suscitato molte polemiche, c'è anche qualche giornale che la riporta fedelmente, poi magari lo vediamo. Ultimissima notizia prima della aggiornamento sul traffico, una bellissima storia raccontata dalla Stampa, l'app per terremoti e alluvioni, così i sindaci daranno l'allerta, inventata da una giovane imprenditrice, è già attiva in 875 comuni. E ora una pausa per il traffico. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Prima di passare ai supplementi culturali della domenica, vi dovevo appunto la frase esatta di D'Alema, la riporta Libero a pagina 4 ed è questa. Renzi parla a nome di una gioventù che non lo segue, i giovani votano no, votano sì solo le persone molto anziane, forse perché hanno maggiore difficoltà a comprendere questa riforma sbagliata. È come per la Brexit, gli anziani non si rendono conto che approvando la riforma renziana si rovina la vita dei nipoti, spero che i nipoti facciano in tempo a farglielo capire. E Libero a gioco facile a titolare in modo molto forte: voti sì, sei vecchio e scemo. Lo spot suicida di D'Alema. E a proposito di anziani, ancora da Libero, vi segnalo appunto la continuazione dell'articolo richiamato in prima pagina di Francesco Specchia. Abbandonare i genitori anziani è reato. La Cassazione sentenza, vietato lasciare i vecchi da soli. Ecco, io prima avevo detto una legge, no, purtroppo non c'è una legge, c'è una sentenza della Cassazione. Non sempre la giurisprudenza in Italia, perché non siamo nel metodo del common law, poi fa cambiare appunto l'atteggiamento di tutti i giudici, però è già un segnale, e appunto la Cassazione ha detto vale lo stesso principio di tutela dei bambini. Ultimissima segnalazione, scusatemi, poi tra l'altro oggi il tempo è poco, però questa storia è bellissima, da Libero a pagina 18, un cane per toccare il mondo. Kainoa, un bimbo autistico, non consentiva a nessuno di sfiorarlo, come purtroppo molto capita in alcune forme di autismo, ha incontrato questo cane, questo Labrador che si chiama Tornado, si annusano ed è amore a prima vista, e ora questo bambino ha imparato appunto che cosa può essere il contatto tra esseri viventi. Dicevo i supplementi culturali, cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Sta attento e parte da una citazione del Talmud. Sta attento ai tuoi pensieri perché diventano parole, stai attento alle tue parole perché diventano azioni, stai attento alle tue azioni perché diventano abitudini, stai attento alle tue abitudini perché diventano il tuo carattere, stai attento al tuo carattere perché diventa il tuo destino. Formidabile questo passo del Talmud, il testo delle grandi tradizioni giudaiche, la cascata irrefrenabile dei pensieri che si fanno parole, che a loro volta si mutano in azioni, che si cristallizzano in abitudini, plasmando il carattere che condurrà al destino ultimo. È la parabola della storia di ciascuno di noi. Vorrei tuttavia porre l'accento solo su quel monito reiterato: sta attento. È significativo che il profeta Ezechiele si definisca come una sentinella che segnala il pericolo. È questa anche la funzione della coscienza che scuote il sonno della ragione. Oggi però tutto sembra indurre a una narcosi dell'anima, del cuore e della mente, così che la cascata evocata possa dilagare senza rumore e ostacoli. la rubrica Memorandum del nostro direttore, nostro di Radio 24 del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, per la seconda settimana è dedicata alle lettere dei librai indipendenti che hanno scritto al direttore per confermare quanto sia importante che le librerie indipendenti continuino a vivere anche in un mercato in cui la grande distribuzione, come in tantissimi altri settori, ha preso sempre più piede. L'articolo principale però della copertina, Il miracolo in un'ampolla di Sergio Luzzato, che prende spunto da un libro appena uscito di Francesco Paolo De Ceglia, Il segreto di San Gennaro, e ci racconta come da 7 secoli a Napoli si rinnova appunto l'attesa per la liquefazione del sangue di San Gennaro. Passiamo agli altri. Prima vi cito, come sentirete anche nella pillola dopo questa rassegna, la nuova iniziativa, è la seconda settimana questa, della domenica. All'interno della Domenica del Sole 24 Ore ci sono 4 pagine dedicate ai lettori più giovani e il titolo è C'è qualcuno che sa leggere? E quindi anche questa settimana appunto 4 pagine per dare consigli di lettura ai bambini, ma magari soprattutto ai loro genitori. Vi segnalo invece la copertina della lettura, il supplemento del Corriere della Sera, come sempre affidata a un artista, questa settimana è Omar Hassan, e dall'interno invece un bellissimo articolo di Giuseppe Remuzzi, che è un medico ma è anche un ricercatore ed è anche un eccellente divulgatore, che ci parla di un libro di Peter Singer, uno dei che si chiama, tra l'altro è uscito per ora soltanto in inglese, si intitola Famine, Affluence and Morality, quindi le carestie, la ricchezza e la moralità, meno lussi, meno fame. È morale la nostra vita, riassume così il sommario della lunga recensione di Giuseppe Remuzzi, mentre tante persone muoiono di stenti. Ecco perché non possiamo sottrarci alla domanda di Peter Singer. La carenza di alimenti in molte regioni del mondo, la difficoltà nell'accesso alla sanità, l'assenza di pace. Dare quello che a noi non serve è un atto di carità o un dovere? Chiarire questo punto è molto importante per il futuro dell'umanità. Dalle pagine invece della Repubblica, il supplemento della domenica, un lungo articolo di Art Spiegelman, che è l'autore di Maus, il primo esempio di un libro fumetti che vinse il Pulitzer. Il titolo è Perché Maus? È l'autore del primo libro fumetti sull'Olocausto, basato sui ricordi del padre sopravvissuto a Auschwitz, torna in libreria con una nuova edizione. Dalla Repubblica, per le interviste straparlando, questa settimana abbiamo Ruggero Pierantoni, che è un biologo ma anche uno studioso di percezione acustica e visiva. Il titolo: un po' scienziato, un po' artista, sono comunque un cervello in fuga. E poi l'ultimissima segnalazione che ho tempo di farvi è di Massimo Recalcati, che è uno psichiatra, ogni settimana interviene sulla Repubblica, e questa settimana il titolo del pezzo è Per sentirci liberi sogniamo una vita animale. Un mio paziente pensava di essere un puma, rifiutava di sedersi e metteva suoni gutturali. La sua infanzia era stata dominata da un padre pedagogo e sadico. Era veramente l'ultima segnalazione per oggi. Ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.